Revolution. Diretta dagli studi radiofonici di CRM Happy Radio, va ora in onda Rock Revolution. Presenta Filippo Brancato. Buonasera, buonasera, ben trovati nuovamente su CRM Happy Radio, la radio che si sente e si vede anche questo venerdì sera. Siamo qui, eccoci. Siamo pronti a iniziare una nuova puntata di Rock Revolution, l'appuntamento è dedicato al rock e agli artisti emergenti. Anche questa settimana, insomma, tre ore di diretta su CRMP Radio, su internet, in audio e video streaming, sul nostro sito crmpradio.it, ma anche sul nostro sito specifico del programma rockrevolution.it, quindi potrete anche interagire se avrete il piacere e la voglia, ovviamente, dai canali Facebook, Rock Revolution Redazione o CRMP Radio, oppure semplicemente al nostro sito, dove potete inviare messaggi direttamente alla nostra redazione, che saluto e ringrazio. Vi da parlare anche buonasera, ciao anche a Simone Brancato, buonasera Simone. E, piccola variazione questa settimana, perché purtroppo la band che doveva essere ospite della nostra puntata non sarà presente, ha disdetto purtroppo l'ultimo momento per motivi, insomma, loro, quindi non saranno con noi quest'oggi. Li salutiamo comunque, non li voglio nominare. Sono rimasto male, non sono venuti, non li voglio nominare. Li comunque salutiamo. Quindi questa sera comunque Rock Revolution versione ridotta, concluderemo il programma alle 23, però non vi preoccupate, perché comunque tutte le rubriche più importanti ci saranno. Parleremo con Francesco Quartararo per parlare di quelli che sono gli eventi più interessanti questa settimana. Come sapete, insomma, non so se ci avete seguito, anche ieri sera eravamo in diretta dallo Zazà Mon Amour di Palermo, questo locale, in occasione della presentazione dell'album d'esordio degli Shazza. Quest'oggi siamo tornati in studio, quindi ci metteremo in collegamento con Francesco per parlare degli altri eventi del weekend. Poi ovviamente non mancherà l'intervista telefonica di quest'oggi, ci metteremo in collegamento con Cesena, pensate un po', per conoscere una band, sono i Suez. Poi capiremo anche se c'è una relazione con il canale. Poi ancora Rock Revolution New Release di questa settimana, le unità in anteprima su Rock Revolution, il Rock for You, i 4 successi rock in sequenza senza interruzioni, anche questa settimana 4 artisti molto particolari, tra l'altro uno che, devo dire la verità, ecco, li ho rivalutati. Ascolteremo gli ACDC, Bachman Turner Overdrive. Aspetta, torna giù. Bachman Turner Overdrive, poi i Queen e i Duran Duran. Pensate un po', dite, come i Duran Duran? Beh, effettivamente mi sono documentato, no? Io, al di là di quelle canzoni che conoscevamo, no? Ordinary World, World Boys, eccetera, eccetera, ci sono tante altre che sono molto carine. E poi comunque loro rientrano nel post-punk, quindi il punk ci sta di brutto all'interno di Rock Revolution. Quindi ascolteremo una canzone sorpresa, non ve lo dico cosa ascolteremo, però i Duran Duran nel Rock for You. Ovviamente, insomma, ancora tanta altra musica, la rubrica dedicata alla musica italiana con Italians Do Rock Better, insomma, tantissimo materiale, ma ne parliamo man mano. Iniziamo subito a fare un po' di musica con una nuova canzone di Green Day, dal titolo Stray Hearts.

già passato un anno dall'uscita di questo album degli Offspring, Let's Go By. Questa era The Future Is Now, uscita il 26 giugno 2012, quindi fra pochissimo, insomma, già un anno. Vi faremo poi gli auguri. Invece un'altra data purtroppo non proprio bella come questa per gli Offspring, degli Offspring di un anno di uscita dall'album, invece sono 19 anni purtroppo dalla morte di Kurt Cobain, frontman, leader dei Nirvana, e quindi abbiamo pensato di commemorare questo momento con una delle canzoni forse più rappresentative dei Nirvana. Stiamo parlando ovviamente della canzone che tutti conosciamo. Si titola Smells Like Teen Spirits. Riguardo alla morte di Kurt Cobain, insomma, si potrebbe parlare davvero tantissimo. Se volete, insieme, se siete su internet, andate a dare un'occhiata. Wikipediatevi. Un nuovo termine. Sono in Nirvana, Smells Like Teen Spirits. Non so se lo sapete, però insomma Kurt Cobain venne anche in Italia. Siamo nel 23 febbraio del 94, fece la sua ultima apparizione televisiva, tra l'altro insieme a Nirvana, su Rai 3 nel programma Tunnel, condotto da Serena Dandini, cantando Serve the Servant and Dumb. è nel documentario Chi ha ucciso Kurt Cobain, sempre della Dandini, dove si parla appunto di questo incontro con Kurt Cobain. Lei ha detto che incontrandolo ha avuto l'impressione di una persona di una sensibilità estrema, indifesa, che difficilmente si riusciva a guardare negli occhi, con uno sguardo di paura come di un cucciolo braccato dal mondo. Questa era un po' la sensazione che poi effettivamente hanno un po' tutti negli ultimi periodi in cui Kurt stava per prendere il volo, diciamo così. Tra l'altro un primo accenno, diciamo, di malessere lo ebbe proprio a Roma, dove era in vacanza con la moglie all'Excelsior di Via Veneto, e lì fu già ricoverato una prima volta per un'overdose, poi si riprese, insomma, poi da lì cominciò, insomma, il calvario che poi lo portò purtroppo al suicidio. Tante volte, insomma, viene a pensare chissà se Kurt Cobain fosse ancora vivo, belle roba. Va bene, siamo pronti adesso per metterci in collegamento con quel di Palermo per riascoltare. Ieri siamo stati assieme, abbiamo passato una bellissima serata, ci ha anche offerto il cornetto caldo, fantastico, il nostro amico Francesco Quartararo. Francesco, buonasera, anzi ci mettiamo in collegamento prima, giusto. Rock Revolution Net. Sistema attivato. Connessione in corso. Elaborazione dati in progresso. Città di destinazione. Località selezionata, Palermo. Point to point stabilito. Eccoci qua. Allora Francesco, buonasera. Buonasera. Oh, guarda quel cornetto, guarda, stamattina effettivamente ci stava un bis. Sì, vabbè, dai, te l'avevo detto. Secondo lo spuntino all'una e mezza è composto a Palermo da pezzi di rosticceria fritta o con zucchero salati. Poi non mi siete fatti convincere a prendere il cornetto alla mattina, pazienza. E infatti, vabbè. Parlavi di Nirvana poco fa, se ricordo bene il 5 di aprile, l'anniversario. Ecco, sì, sì, sì. Proprio oggi. Bravo, complimenti. Nirvana, insomma, mio vecchissimo amore, diciamo, è stato spettato a rock anche grazie a loro, insomma. Beh, sicuramente quella nota di tristezza. Sì, infatti, sicuramente una delle band che hanno comunque influenzato il gusto musicale di tantissime generazioni, tra le quali le nostre e tante altre. Insomma, ancora oggi leggevo su una rivista di settore, sono fra le band più ascoltate dai giovani che iniziano un percorso rock and roll. Sì, tra le altre cose mi hai fatto anche ricordare un dato abbastanza curioso, il fatto che probabilmente i Nirvana sono stati tra le ultime band a fare del rock un genere vendibile discograficamente. Da quel momento in cui è stato sempre più difficile vendere dischi rock o comunque addirittura così innovativi, perché parliamoci chiaro, Nirvana sono stati sparati direttamente dall'underground di Seattle, dritti, Aberdeen e poi Seattle, direttamente nel mondo. Quindi un fenomeno, diciamo così, che ha creato grande musica a cavallo degli anni 60 e 70, ma che sostanzialmente si è esaurito. Certo. Oggi, se dovessi pensare a una band che sta innovando davvero tantissimo, come i Korn, che hanno portato di prepotenza il dubstep nel mondo del rock, confronti i dati di vendita, insomma, rimane ancora un qualcosa di nicchia. Poi certo, è, diciamo, cronaca di tutti i giorni il fatto che comunque ormai il dubstep da ex corrente underground è diventato un nuovo linguaggio musicale. Infatti, beh, una band composta da tre elementi, sicuramente anche il fatto che comunque sul palco venivano fuori proprio al naturale, ecco, la rabbia, la grinta del grunge la esprimevano, secondo me, nel migliore dei modi. Questo ha dato al pubblico, come dire, un input per gradire e apprezzare la loro musica. E poi probabilmente, oltre che un discorso di una band tecnicamente molto preparata, con dei contenuti testuali anche molto complessi, era soprattutto, giocava molto a loro favore il fatto dell'immagine, cioè il fatto della curiosità che spingeva le persone ad assistere un concerto di Nirvana. Magari, sai, un po' si guarda la Formula 1 per vedere gli incidenti, no? E quindi forse anche il fatto di aspettarsi dai Nirvana qualche atto in particolare, qualche momento di pazzia, tra virgolette, ecco, spingeva molte persone a seguirli anche dal vivo. Comunque, ma forse anche il loro approccio a basso profilo, no? Nel senso che li vedevi sul palco, erano quasi sciatti, cioè sembravano usciti così da casa, perché andiamo a suonare, abbiamo un concerto con 700.000 persone, andiamolo a fare. Tra l'altro poi, insomma, Dave Grohl tecnicamente si è visto poi di che cosa era capace, certo, si è bene o male riciclato, certo non a livelli di Dave Grohl, però tra parentesi, hai fatto caso che Dave Grohl ha scelto un batterista che ricorda fisicamente molto Kurt Cobain? Sì, effettivamente, adesso che mi ci fai pensare, non l'avevo notato, però adesso che me l'hai fatto notare, effettivamente c'è una certa somiglianza. Avrà cambiato colore ai capelli, eccetera. Comunque, anche qui a Palermo qualcosa ogni tanto si fa. Oh. Dove si fa? Nei soliti posti. Infatti, ti riparlo ancora di Zazà, dove eravamo ieri sera, dato che stasera c'è un ritorno del DCSDM, che è una sorta di evento che è stato provato e testato a fine anno, ed è sarà riportato anche stasera sul palco dello Zazà. Band crossover, metalcore, un'idea carina per quanto riguarda la partecipazione alla festa, che appunto è strutturata, ha un ingresso di 3 euro, ma è strutturata un po' come una festa, quindi i fotografi in mezzo alle come se fossimo in discoteca. Anche l'organizzazione stessa dell'evento è molto crossover, perché ci sono varie influenze e si sono fuse. Poi l'altro grande polo di attrazione rimangono i cantieri culturali della Zita, dove ieri appunto c'è sul Sound System, ma stasera c'è una bellissima festa in Nutella Party. Ah! Per via lo stress. Pericolosi. Pericolosi e per lo stress. Infatti. Io sono una bombola di ossigeno e mi sentite con 4 toni in meno di voce. Fra un po' metto il casco di Darth Vader, perché sto scirocco non mi lascia tregua. E immagino, purtroppo in questi giorni, insomma, dalle nostre parti c'è lo scirocco che soffia forte, e quindi tutte le persone, insomma, che soffrono di allergie inevitabilmente girano col fazzolettino di carta in tasca. Eh sì, ora vado a prendere il casco nero, non trovo la spada laser, giusto per darmi un tono del sabato. Ah, pensavo volessi fare un altro Harlem Shake. Guarda, non ci abbiamo pensato, in effetti, sarebbe stata un'idea. Infatti. Ho dovuto fare anche in mezzo alla strada. Va bene, insomma, un weekend intenso anche questa settimana a Palermo, la musica da vivo, i cantieri culturali della Zisa che sono tornati, insomma, attivi, anche grazie probabilmente anche al supporto del sindaco, no? Leo Luca Orlando. Sì, anche l'assessore Giambrone, c'è un buon circuito che si è attivato. Il problema è capire quanto dura, perché certo. Insomma, il comune ora ha qualche problema in più anche riguardo all'AMIA. Anzi, guarda, oggi ancora la notizia non l'ho data, ti do uno scoop: l'AMIA a Palermo è in grossissime difficoltà, quindi si parla di pesanti buchi che potrebbero portare presto a sviluppi preoccupanti per la città. Ai. Insomma, siamo messi nel problema della il problema dei rifiuti. A un certo punto saremo rischiacciati di nuovo dai rifiuti, giusto il tempo di mettere fuori il naso per rivedere, insomma, la città rifiorire, subito ritorniamo alla triste e puzzolente realtà. Vedi, questo è un problema purtroppo che è alla base di un sistema di civiltà, no? Dovremmo essere proprio noi i primi a riciclare materiali, cercare di produrre meno rifiuti possibili. Vedo tante volte, insomma, nelle nostre zone la gente prende e mette dentro il sacchetto della spazzatura qualsiasi cosa e la butta in mezzo alla strada. Forse se si facesse più attenzione a dividere i vari rifiuti, otterremmo due cose: la prima, di avere meno rifiuti in mezzo alla strada; l'altra, di riciclarli e quindi spendere meno anche per quello che riguarda poi... L'attuale presidente della regione, nella sua città d'origine, Angela, ha avuto un'idea molto semplice: per abituare i cittadini alla raccolta differenziata, togliamo direttamente i cassonetti. Nel momento in cui non si trovano più i cassonetti unici, ma necessariamente si trovano quelle scomodissime campane, giustamente si deve far caso al giorno della settimana in cui si butta l'umido, in cui si butta la plastica o la carta, eccetera, e quindi, insomma, ci si abitua semplicemente nei modi più semplici. Il grosso problema sostanzialmente sì, in parte anche nell'educazione civica, ma è nella grande distribuzione, certo. Vogliamo dire così, dei rifiuti, e comunque non si sa più dove metterli. Ricordo qualche anno fa, mentre c'era Napoli strapiena di rifiuti, anche Palermo, insomma, a un certo punto non sapeva più dove metterli, ci fu una brillantissima idea di qualcuno, disse: buttiamoli nell'Etna. nel Vesuvio. Vabbè, sì, il Vesuvio è chiuso, l'Etna bene o male è una caldera ancora pronta. Il problema è che se i rifiuti si squagliano bene, poi ci sarà una lunga processione. Mamma mia, veramente. Guarda, io molte volte ho pensato, ho riflettuto riguardo questo problema. Penso che in Sicilia il primo problema sia la, tra virgolette, l'agnosia, cioè la mancanza di volontà di spostarsi, di dividere i rifiuti, di portarli magari al cassonetto, quello bianco, quello verde. Devo dire che in realtà nelle grandi città, come ad esempio Milano, io ricordo nei condomini, ci sono già dentro i condomini i vari cassonetti divisi, quindi la raccolta viene fatta direttamente nelle abitazioni, la gente non ha la difficoltà di dover raggiungere, difficoltà tra virgolette, di dover raggiungere il cassonetto per buttare, proprio scende da casa col sacchettino con le bottiglie e le butta lì nel cancello, no? È molto più comodo. Ci sono anche vari paesini in Sicilia, piccoli centri, che riescono a farlo. Infatti. Poi mi è servita una battuta sul Piazza d'Argento, perché giusto oggi tu dici che il problema della Sicilia di Palermo è la spazzatura. No, è il traffico. Il perché traffico. Proprio oggi su Informazione ho scoperto che la TomTom ha decretato Palermo come la quinta città più intasata al mondo. Mamma mia, la prima, incredibile. La prima in Italia. Ecco, per una volta siamo fra i primi cinque. Certo, non per le cose positive, per le cose negative, come al solito, però come diceva nel film Johnny Stecchino, perché a Palermo ci sono tre grandi piaghe. Una di queste è il traffico tentacolare. Vabbè. Confermata agli Stati Uniti. Vabbè, pazienza, insomma. Certo, un po' di bicicletta in più e meno macchina non farebbe male, anche da questo punto di vista. Oggi mi sembra molto di parlare di Green Revolution, oltre che Rock Revolution. Francesco, magari facciamo le bici con rifiuti. Infatti. Francesco, grazie ancora per essere stato con noi questa sera. Buon weekend e buon rock and roll. Alla prossima. Ok, buon ossigeno a tutti e buon rock. ciao caro. Adesso arrivano i Red Hot Chili Peppers, che è The Adventures of Rain Dance Maggie. Siamo in diretta su CRMP Radio con questa nuova puntata di Rock Revolution. Questa sera in versione ridotta, termineremo alle 23. Ma non vi preoccupate, cercheremo di fare un bel concentrato di rock and roll. Lipstick, junkie, debunked, the all-in-one. She came back wearing a smile. Looking like someone drugged me, they wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turn around and we go. Revolution su CRM Happy Radio. Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. Such a lonely day shouldn't exist. System of Down, Lonely Day. Bella sta canzone, non stancherei mai ad ascoltarla, molto rilassata. Allora, siamo pronti per l'intervista telefonica di questa settimana. Rock Revolution connected with. Ci mettiamo in collegamento con la bella città di Cesena per presentarvi una band davvero molto interessante. Loro sono i Suez. Pronto, buonasera. Ciao a tutti, sono Gigi. Ciao Gigi, buonasera, benvenuto a Rock Revolution. Grazie, grazie mille. Allora, diamo subito le coordinate, gli amici ci stanno seguendo per conoscere un po' di più questa band che vi stiamo proponendo, quindi su Facebook Suez Band e poi c'è anche un MySpace. Avete anche un sito internet, Gigi? No, per il momento no. Bene, ci quindi ci affidiamo ai social network. e a SoundCloud. Ecco, SoundCloud, dove è possibile ascoltare anche la vostra musica, immagino. Esatto, ci sono due brani sempre pronti. Bene, allora cominciamo subito con le presentazioni della band. Come nasce questo progetto e come è cresciuto dalle origini ad oggi? Da quanto tempo, insomma, portate avanti questo progetto? Guarda, devi sapere che abbiamo quasi incominciato a suonare insieme quando eravamo praticamente adolescenti e abbiamo considerato comunque la musica una sorta di crescita personale, di confronto con un soggetto con cui confrontarci. Il progetto Suez è nato nel 2005, quando praticamente volevamo dare un taglio con ciò che facevamo prima e dare invece spazio a quello che stavamo ascoltando in tutto in quel periodo. Sì. Quindi l'indie rock e quindi anche tutto quello che c'era intorno, il post rock, il post punk, e da di lì insomma abbiamo cominciato a elaborare un nostro sound e abbiamo dato vita a questo nuovo progetto, dando appunto un taglio con quello che eravamo prima e ancora siamo qua a portarlo avanti. Il Legend of Growth, giusto? Nuovo lavoro. Esattamente. Qual è l'elemento innovativo di questo disco rispetto alle passate produzioni? Ma innanzitutto è un disco scritto e pensato meno di getto rispetto ai precedenti, in cui eravamo praticamente tutto istinto. Abbiamo voluto prenderci del tempo, l'abbiamo registrato in casa con le nostre forze, l'abbiamo fatto mixare all'esterno, ma il fatto di averlo prodotto, diciamo, nella nostra sala prove ci ha permesso di provare più volte varie soluzioni, riascoltarci e definire, scolpire meglio appunto il nostro sound. Volevamo andare oltre, diciamo che facendo musica prevalentemente per noi stessi, non ci poniamo dei limiti quando iniziamo a comporre e ci piace proporre qualcosa di diverso e non, diciamo, riplagiarci e non, magari quando hai un filone che pensi che possa andare, ecco, lì è il momento in cui invece tendiamo a non ripeterci, ma ci fermiamo un attimo e cerchiamo di capire cosa di nuovo bolle in pentola all'interno di noi soprattutto. Certo. E che poi viene fuori in sala prova all'interno di improvvisazioni e dal di nascono i nuovi brani. Certo. Senti, negli ultimi anni insomma tecnologia ha giovato molto alle band emergenti, sia in termini di produzione per quanto riguarda insomma la possibilità di comunicare con tante persone grazie alle varie tanti social network come Facebook, Twitter, eccetera, eccetera, ma anche dal punto di vista tecnico, quello della registrazione, no? L'homemade cosiddetto, la possibilità di con degli strumenti di poter fare una gran pazienza, ma alla fine se sai quello che vuoi non ti devi perdere, perché il tempo che ci impieghi è molto davvero, a volte ci impieghi più magari a gestire la tecnica piuttosto che a suonare, ma piano piano se non ti perdi d'animo e inizi invece a ragionare su quello che viene fuori, ne trai anche i lati naturalmente positivi. Certo. Senti, band italiana, testi in inglese che raccontano di ragazzi costretti a piangere, in che senso? Sì, questo è Boys Must Cry, stai parlando di questo brano, abbiamo voluto parafrasare un noto brano dei Cure, che è una band che è stata per noi un riferimento, la suonavamo anche nei nostri concerti, Boys Don't Cry, e questo è un po' un filo conduttore che c'è in Illusion of Growth, che parte principalmente da una, come posso dire, dall'esigenza di scavarsi dentro, di interrogarsi dentro. E l'idea di voler andare un po' dentro il buio che è dentro ognuno di noi, ma non per essere fine a se stesso, ma per trovare invece qualcosa, una luce meno finta e una luce invece più vera interiore. E nel fare questo appunto siamo passati dentro quelle che sono le debolezze, le difficoltà di ragazzi tra i 20 e i 30 anni. Certo. E quindi Boys Must Cry racconta appunto di questo, della voglia di esplodere, di essere in questo mondo, ma della difficoltà che poi si incontra nella realtà ad esserlo tutti i giorni. Senti, di fronte ai tantissimi artisti che si trovano in rete, cosa devono aspettarsi gli ascoltatori, i nostri ascoltatori dai Suez, e perché ascoltarvi? Ma innanzitutto la cosa che abbiamo sempre evitato di fare è quella di essere accattivanti, nel senso di strizzare l'occhio all'ascoltatore. Siamo un gruppo che in molti casi o ci ami o ci odi, e richiediamo, diciamo, una voglia da parte dell'ascoltatore fin dall'inizio di essere dentro il nostro sound, i nostri progetti. Anche questa voce che abbiamo, che è molto, come posso dire, marcata, a volte quasi sembra che possa dare fastidio, però in realtà quello che vogliamo fare è accompagnare l'ascoltatore attraverso delle melodie, ma anche poi attraverso quelle che sono delle disarmonie, quindi un sound che in alcuni casi sembra soft, ma ha veramente tanta voglia di tanta rabbia, tanta voglia di raccontarsi anche nei testi che vengono proposti, appunto. Senti, adesso è uscito questo nuovo lavoro, progetti per il futuro, cosa avete in mente di fare quest'estate? Avete già in mente di fare un piccolo tour, andare un po' in giro per la promozione? Ma devo dirti che non siamo propriamente un gruppo estivo, nel senso che suoniamo un genere che magari in alcuni casi può essere meno apprezzato, appunto, d'estate, quanto piuttosto siamo un gruppo molto più da club piuttosto che da festival in questo senso. Quindi stiamo programmando alcune cose in Emilia Romagna e ci stiamo mettendo in contatto per fare altre cose fuori regione e in Italia, a partire prevalentemente da settembre. Bene, senti, una curiosità personale, su Ezza, a che fare con il canale? Ti dico, quando abbiamo incominciato il progetto ci siamo posti, appunto, anche il problema del nome, sai, magari quando sei una band, non dico all'inizio, ma comunque quando pensi al nome pensi a qualcosa che debba avere un significato intrinseco, delle cose, delle storie dietro. In realtà noi cercavamo di essere semplicemente quello che ci sentivamo in quel momento, ovvero far venire fuori tutta questa nuova musica che sentivamo, che ascoltavamo e che stavamo rielaborando, appunto, dentro di noi, che aspettava, appunto, di essere suonata dai nostri strumenti. Cercavamo semplicemente un nome che fosse senza maschere, che fosse semplice e diretto, e così è nato Suez, che può essere ricondotto a tutta niente, a un paese, a un canale o semplicemente a un nome corto di quattro lettere, come vuoi, come preferisci. Bene, io la vedo come un nome che incanala tutta l'energia della musica. In effetti questo è stato, anche perché siamo comunque quattro soggetti, noi che ci conosciamo veramente da tantissimi anni, suoniamo da circa 15 anni insieme, abbiamo sempre avuto quattro gusti abbastanza differenti, e l'essere insieme in sala prove, quando viene qualcosa fuori di nuovo, è sempre un qualcosa che da singolo non ti saresti aspettato, è sempre, diciamo, la somma, quello che viene fuori da un gruppo è più della somma dei singoli, in questo senso è veramente un canale che ci ha portato, appunto, verso questo genere che facciamo anche fatica a definire, lasciamo magari a chi è più del mestiere le definizioni, certo. Ma che ci piace sicuramente suonare e anche rielaborare, ripetendosi il meno possibile. Un'ultima domanda, noi lo chiediamo un po' a tutte le band che intervistiamo ogni settimana dalle varie parti d'Italia, quindi giustamente vogliamo sapere anche nel quel di Cesena com'è la vita della musica dal vivo, come si vive la musica dal vivo, c'è possibilità, c'è spazio? Ci sono, in realtà in Romagna in generale c'è abbastanza fermento, ci sono stati un paio di locali che portano tuttora molta musica anche italiana e anche internazionale nei club, quindi c'è molto fervore, c'è tanta gente che suona, c'erano tanti gruppi. Proprio l'altro giorno ragionavamo tra di noi e ci dicevamo come in realtà nella nostra zona gruppi nuovi, magari di ragazzi che erano tirati, eccetera, ce n'è forse un po' di meno. Diciamo che adesso si va un pochino più magari sull'onda di queste feste, con musica molto, molto bella, ma diciamo gruppi che sono venuti fuori ce ne sono di interessanti, che sfruttano molto bene l'elettronica. I locali ci sono, c'è la possibilità di suonare, diciamo che, ecco, il pubblico forse sembra molto abituato magari al nome straniero, mentre invece quando c'è qualcosa di italiano, ma anche comunque di valido, ci mette forse qualcosina in più prima di lasciarsi coinvolgere. Questa è una mia impressione, me ne prendo anche la responsabilità. Beh, io sono certo che dopo aver ascoltato la vostra canzone sicuramente si apriranno nuovi canali. No, stasera tra l'altro siamo proprio a suonare, tra una mezz'ora incominciamo il concerto, siamo in un locale qua del Cesenate che è l'Ancello di Gambettola tra i 60, siamo noi e un gruppo di Bologna, sempre della stessa etichetta, Lips Against the Glass, che fanno un electro gaze molto, molto interessante, sono ragazzi, appunto, di una ventina d'anni e sono davvero intraprendenti, siamo a... E quindi due gruppi comunque della zona, ci sono ancora locali che ci credono e che danno spazio. Beh, meno male, questo è l'importante. Peccato che ci dividono tanti chilometri, altrimenti finito il programma vi avrei raggiunto. Gigi, è stato un piacere conoscervi. Veniamo noi da voi con calma da quelle parti. Ma con molto piacere, veramente, con molto piacere, con molto piacere. Gigi, è stato... Io vi ringrazio per aver apprezzato il nostro lavoro, so che non è sempre facile, anche vi arriveranno una veramente carovana di proposte, a volte anche difficile penso scremare. Vi ringrazio quindi dello spazio che ci avete dato e vi invitiamo a seguirci sui nostri link, sul nostro su Facebook e su MySpace, e naturalmente saremo ben contenti di farvi ascoltare qualcosa di più di noi. Grazie a voi di essere stati in nostra compagnia, ascoltiamo Suez 10,000 Years. Grazie, ciao ciao ciao, alla prossima. That's you. I due brani in sequenza questa sera, la prima sessione di due brani in sequenza. Abbiamo ascoltato i Player con Baby Come Back, datati 1977. Loro sono un gruppo rock americano di genere OAR che iniziò la propria attività nella seconda metà degli anni 70. È famoso soprattutto per il singolo Baby Come Back che abbiamo appena ascoltato, che è entrato nella top 100 Billboard raggiungendo il primo posto ed usato in alcune colonne sonore come ad esempio il film dei Transformers. che avrete sicuramente visto. Poi abbiamo ascoltato i Kasabian, un brano decisamente più recente, con Where Did All The Love Go. Parliamo del 2009, tratto dall'album West Rider Pauper Renetic Asylum, ed è il secondo singolo estratto di questo disco, pubblicato il 17 agosto del 2009. West Rider Pauper Renetic Asylum è il terzo album della indie rock band inglese Kasabian, e l'album tra l'altro venne nominato ai Q Awards come migliore album dell'anno. Pensate un po', adesso torniamo indietro nel tempo con un grandissimo classico, e non potevamo non passare questa settimana una bella canzone dei Doors. Questa è LA Woman, la canzone che dà il titolo all'omonimo album del 1971 dei Doors, l'ultimo album con il loro leader Jim Morrison prima della sua morte. Alla fine della canzone, curiosità, Jim ripete la frase Mr. Mojo Rising, che è l'anagramma di Jim Morrison. La canzone è stata registrata tra l'altro a Santa Monica, quindi un ambiente decisamente molto estivo. Questa è una canzone che hanno eseguito solo una volta dal vivo, pensate un po'. LA Woman. So alone. Revolution presenta Italians Do Rock Better. Due successi rock mixati, targati Italia. Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna, o forse no, è sveglia, mi guarda. Già l'odore della terra, odor di grano, sale d'acero. Revolution presenta Italians Do Rock Better. Accoppiata, veramente. Marlene Kunz con Impressioni di settembre, bellissima canzone all'interno di Italia's Do Rock Better, due successi rock italiani in sequenza mixata, quindi Marlene Kunz con questa canzone bellissima, premiata Forneria Marconi, e poi in sequenza con il Litfiba Morgana, che fa parte dell'album Terremoto. Siamo nel 1990 qualcosina, eh? Adesso invece torniamo indietro nel tempo con la rubrica dedicata ai grandi classici della storia del rock con I Love Rock and Roll. Questa settimana due canzoni insomma abbastanza conosciute, anzi la prima sicuramente, la seconda non so quanti di voi la conoscono. Parliamo della prima, quindi Ritchie Valens con La Bamba e Van Morrison, Brian Eyed Girl con I Love Rock and Roll. Rock for You, i quattro successi rock più belli di tutti i tempi in sequenza mixata.

Rock for You, quattro successi rock in sequenza, senza interruzioni. Lo scherzetto del computer, in realtà non era I Love Rock and Roll, era la rubrica Rock for You, quattro grandi successi rock più belli tutti i tempi in sequenza mixata. Questa settimana abbiamo ascoltato gli AC/DC con Rock and Roll Damnation, che fa parte di Power Age, quinto album in studio degli AC/DC pubblicato nel 1978. La sostanziale novità di quest'album è l'ingresso nella formazione di Cliff Williams, che sostituisce al basso Mark Evans. Esistono tra l'altro alcuni vinili, soprattutto nelle prime versioni europee, che contengono la canzone Cold Hearted Man ed altre edizioni che presentano un diverso mixaggio nelle seguenti canzoni: Rock and Roll Damnation, che abbiamo appena ascoltato, Down, Payment Blues, Gimme a Bullet, Riff Raff e What's Next to the Moon. Poi abbiamo ascoltato i Bachman Turner Overdrive con You Ain't See Nothing Yet. Loro sono un noto gruppo musicale formato a Winnipeg in Canada nel 72. Not Fragile è il loro terzo album del 1974. Curiosità, il titolo del disco è probabilmente una sorta di risposta all'album degli Yes, il cui titolo era appunto Fragile. In questo terzo lavoro si può notare un netto miglioramento sotto il punto di vista compositivo e musicale, con una tracklist originale più concreta. Importante tra l'altro fu l'arrivo nel gruppo di Blake Thornton, che sostituendo Tim Bachman diede alla band una più solida seconda chitarra che accompagnasse Randy Bachman. Inoltre, nell'album sono presenti molti duetti di chitarra fra Bachman e Thornton, che caratterizzano e danno una sorta di maturità alla sonorità del gruppo. Si tratta dell'album più famoso e di successo del gruppo che insomma sia stato mai fatto, e contiene anche delle due hit che settero nelle classifiche radiofoniche per diverse settimane. Terzo brano del Rock for You, un grande classico, parliamo dei Queen con I Want to Break Free, tra l'altro un video molto carino dove si vede Freddie Mercury con vestito da donna con l'aspirapolvere in mano che gironzola ballettando per casa, una cosa molto carina. È una canzone quindi dei Queen, scritta dal bassista John Deacon ed estratta come secondo singolo dall'album The Works del 1984. Dopo due anni di pausa, i Queen tornano a registrare un nuovo album in studio dall'uscita del precedente album Hot Space dell'82. In quest'album tra l'altro sono presenti tutti i marchi di fabbrica dei Queen, dagli arrangiamenti ricchi ai virtuosismi vocali e dai maestosi riff di chitarra e basso, tornando ad accontentare i critici e i fan più accaniti rimasti delusi dall'album precedente. Quarto brano del Rock for You erano i Duran Duran con A View to Kill, è un brano pubblicato nel 1985 dall'etichetta famosa l'EMI. E la prima apparizione su album dei Duran Duran risale però al 1989, inserito nella raccolta Decade Greatest Hits. Il brano è parte della colonna sonora, tra l'altro, del film Agente 007 Bersaglio Mobile. Questo era il Rock for You di questa settimana. Adesso, se sperando che il computer non fa un altro scherzetto, andiamo ad ascoltare I Love Rock and Roll. This is Rock Revolution. With the Rock Revolution. Yo! laughing and running, hey, hey, behind the stadium with you. Questa era I Love Rock and Roll, lo spazio dedicato ai grandi classici su CRMP Radio all'interno di Rock Revolution. E adesso, insomma, come sapete, è arrivato il momento di andare a scrutare sul web quelle che sono le notizie più curiose con la consueta rubrica Rock Revolution News of the Week. Rock Revolution News of the Week. Oh, bentornati caro Francis e caro Pablo. Ciao, ciao a tutti. Buonasera, ciao ragazzi. Buonasera, buonasera. Questo lo vuoi? Vuoi portare? No. Sì, sì, il gelato a... Aspetta, gelato. Guarda, lo allora accendiamo. Ecco, guarda che bello. Funziona? Funziona. Uno, due, tre, prova. Allora ragazzi, com'è andata questa settimana, questa Pasquetta? Avete trascorso delle buone vacanze? Sì, sì, il classico arrosti e mangi. Eh beh, quello è immancabile. Il vino buonissimo. Tutta forte. immaginavo. Vino buonissimo. Beh, vi siete ripresi comunque da questa bella andata di vacanze, insomma, questa. Sì, grazie ai gastroprotettori. Ho capito, bene, bene. Allora, siamo questa sera di nuovo on air con voi per parlare di quelle che sono le notizie che di settimana in settimana arrivano da internet, forti, prepotenti e anche molto particolari. Spero non osè questa settimana perlomeno, insomma, speriamo no, di parlare. No, no. Tranquillo, vero? Va bene. Oh, allora, chi inizia? Io volevo informarti, Filippo, che stiamo preparando un reportage, io e Paolo, sì. Bellissimo. Sì, su... praticamente lo sfruttamento sessuale da parte di certi ambienti. Uh-huh. E volevamo sapere come si fa a fare carriera e diventare speaker, per esempio, come lo sei tu. No, perché sì, Gianni aveva il dubbio che tu facessi come fanno le veline, le ragazze che vanno allo spettacolo. Lo sapevo che andavo a parlare questo. Dunque, guarda, cade a fagiolo la vostra domanda, perché dovete sapere che CRMP Radio anche quest'anno ha indotto un corso per dare la possibilità ai giovani di imparare questo mestiere. Quindi se volete, insomma, siete benvenuti, ma non credo che ce ne sia bisogno. Ormai col microfono avete una certa dimestichezza, no? Quindi... Sì, Gianni col gelato è bravo. Infatti. Bene. Allora, iniziamo con la prima notizia questa settimana. Ok, inizio io. Vi racconto una storia accaduta a Palermo, dove una giovane di colore affetta da nanismo è stata cacciata dall'aula del tribunale di Palermo perché il giudice monocratico l'ha scambiata per bambina. Mamma. Pensa te. Ma poi ce l'abbiamo fatta a capire cosa significava. Monocratico. Io sentivo. Sì, Filippo mi ha dato una spiegazione. È stata la nostra redazione. Ah, vabbè, lo vogliamo spiegare cos'è monocratico? Abbiamo sollevato. Credo che sia l'unica persona ad avere il potere di decidere in bravo. Quel momento. Bene, bene, bravo, perfetto. Oh. Comunque, continuo. La ragazza, che in realtà aveva 17 anni, si trovava nell'aula in quanto persona offesa e quindi parte coinvolta in un procedimento. Dopo alcuni minuti dall'uscita della giovane, però, il giudice è stato informato della gaffe. Quindi inutile descrivere l'imbarazzo provato dal giudice, che con il suo gesto voleva semplicemente far rispettare una legge che vieta ai bambini di entrare nelle aule di giustizia. Certo. Non certo per offendere la ragazza. Al rientro della 17enne nell'aula il silenzio è stato assoluto. L'imbarazzo era stato generale, sicuramente. Certo, immagino. Gianni piange, poraccio. La piange. Vabbè, era una notizia comunque. Detto tante volte di cercare di dare delle notizie di un certo peso. E quindi, giustamente, Pablo ha parlato di una cosa comunque importante. Potrebbe far ridere. Sono confuso. Perché sei confuso? Chi era la bambina? Non lo so, è una certa signora. Il giudice. No, la bambina chi era? Un giudice bambino. Non lo so, vabbè, lasciamo stare, ci complichiamo la vita. Era una ragazza affetta da nanismo. Di colore, e il giudice pensava che fosse una bambina, in realtà aveva 17 anni. Vai fuori, non vanno i bambini. Invece era la partelera. Vabbè, cose strane che succedono. Bene, poi parliamo di cos'altro. Gianni, qualcosa di grazioso. Chi è Gianni? Io qui vedo Santo Francis e Paolo. Francis Ford Coppola. Ah, ok. Wei. La moglie non lo vuole più, lui pretende di fare sesso con la suocera. Ah, hai capito? Ebbene sì. La famosa legge della maniglia. Sì. Ah no, quella è l'altra. In un certo senso sì. Prima la madre e poi la figlia. Al contrario, perfetto. Al contrario. Allora non è maniglia. È sbasissimo. Sarà un'altra cosa. Ebbene sì, a Bergamo un ucraino di 38 anni ha telefonato alla suocera con nazionale di 45 e le ha raccontato che da 6 mesi non faceva sesso con la moglie. Ha quindi preteso che la donna lo risarcisse andando a letto con lui. Ricevendo il 2 di picche anche da lei, ha minacciato di ucciderla. No, incredibile. Arrestato. Questo dimostra però che non sempre il genero non piace alla suocera. Infatti. Hai capito? Quindi siccome non faceva sesso con la moglie, ha detto: visto che tua figlia non fa sesso con me, almeno tu devi restituire. Tanto sempre in famiglia, una roba da matti. Guarda. Ci spostiamo poi dove? Dove? Vedo un po' fiacchi questa sera. Mi metto di là. Vedo un po' fiacchi questa sera. Parliamo di... Siete stanchi. Aspetta, approfondiamo. Anche tu mi sembri fuori corda. Hai sembra di avere qualche linea di febbre. Non vorrei dire, però per forse... questo. Allora, Pablo, di cosa parliamo adesso? Parliamo di una nuova moda. Oh, che bello. Nuove tendenze, perfetto. Personal trainer. Beh, è una bella professione, certo. Tenersi in forma. Infatti, niente di... scandaloso. Di nuovo, di nessuna nuova moda essere il personal trainer. Tranne che questo personal trainer è in camera da letto. Ah, sì. Cioè? A New York sta infatti spopolando la moda degli insegnanti di sesso. Pensa tu, immagina di essere la tua ragazza e accanto a questo personal trainer che ti dice come fare. Comunque niente di scandaloso. Anzi, si tratta di veri e propri personal trainer che aiuterebbero tutti coloro che si trovano in difficoltà tra le lenzuola. Non so, tu hai questi problemi? No, per fortuna non si è mai lamentato nessuno, devo dire. Quindi non prenderesti un personal trainer? Ma non penso proprio. Capisco. Io e Gianni, siccome c'è qua in Italia, dice, arriverà mai questa... Noi abbiamo anticipato. Noi già abbiamo aperto una sede. Una scuola. Una sede qui a Cefalù, il numero 333. Va. Ok, diciamo, quindi siete già dei personal trainer a tutti gli effetti. Bene, una prima telefonata è arrivata. un cliente. Hanno già chiamato per un'asina. quindi entriamo nei dettagli. Esatto, fino ad ora si conoscono questi due personal trainer che sono americani, Eric Amarant e Amy Jo Goddard. Solo il cognome, certo, lascio intuire. Che hanno metodi differenti. Infatti il primo si posiziona ai bordi del letto, sì, proponendo consigli su cosa fare durante l'attività sessuale, come muoversi. Il secondo invece, più distaccato, che non vuole, dona consigli attraverso Skype. Ho capito. Quindi non solo c'è un guardone dentro la stanza, pure su internet. Ma voi pensate che arriverà mai? Ma non lo so, onestamente. Telefonate al nostro numero. Ci saranno sicuramente tantissimi personal trainer, ma di persone che ne usufruiscono credo poche. Sottolineiamo anche che non è molto oneroso. Ah, quindi no, si può fare volendo. Sì, vabbè. Si può fare. Questa è una nuova professione, si chiama guardoni, non personal trainer, è un'altra cosa diversa. Vabbè, insomma, se volete, insomma, è una nuova professione, se ne inventano di tutti i colori in questi ultimi tempi. Dal pittore che usa il proprio organo di riproduzione per dipingere ai personal trainer per quanto riguarda il sesso. Bene, adesso c'è una... cos'è sta cosa? Un'altra notizia che praticamente riguarda un uomo in punta di morte che sta scambiando le ultime parole con la moglie che lo sta assistendo. E quindi adesso a un certo punto la moglie gli chiede una serie di cose. Mamma mia, vediamo come viene fuori. Quindi adesso praticamente abbiamo noi la moglie e il marito, vengono interpretati egregiamente da Pablo e Francis. Vai! Senti, caro, prima di morire, dimmi, quante volte mi hai tradito? Ma dai, cara, lascia perdere. Perché mi devi angosciare con queste domande anche in punto di morte? Ma no, non è giusto. Io così non saprò mai come ti sei comportato con me. Ti prego, dimmelo. E vabbè, hai visto quel barattolo che tengo sul mobile del salotto? Lì dentro ogni volta che ti ho tradito ho messo un fagiolo secco. L'hai riempito? Ma no, ce ne saranno una decina. Ah, ma bravo! Ma cara, visto che ci siamo, dimmi pure tu quante volte mi sei stata infedele. Guarda, hai visto il barattolo di coccio che tengo in cucina? Ogni volta che ti ho tradito, ci ho ficcato dentro un chicco di riso. Beh, mi sembra vuoto. Sì, però ci ho già fatto due volte il risotto. No, ma che vergogna. Comunque, complimenti per l'interpretazione, soprattutto per la parte femminile di Pablo, che è venuta al naturale. Complimenti. Complimenti, perché potete sapere che questa voce era quella naturale. Quando invece parla con Francis è la voce camuffata. Complimenti, bravo, bravo. Va bene, amici. Questa settimana abbiamo concluso con questa scenetta. C'è altro? Vogliamo parlare di altro? Vedo che siete venuti forniti questa settimana di un bel po' di roba. Andiamo avanti, a me fa piacere. Ma volevamo dare più che altro. Ma ce la conserviamo per la prossima volta. Guarda, no, pur di non lavorare la prossima settimana, rinunciano. Vergognoso. Vabbè, vabbè, ok. Abbiamo capito. Decidiamo di chiudere così. La rubrica più pazza della radio, direi io. Vabbè. Va bene, Francis e Pablo, grazie. Complimenti, grazie, che siete bravissimi. La prossima volta vi vogliamo anche travestiti, cioè nel senso con le parrucche e tutto, la prossima scena. Tanto la possiamo fare, andiamo anche in webcam. No, credevo volessi travestiti qui. No, no, per l'amor del cielo. Va bene, vi ringraziamo per essere stati con noi. Quest'oggi concludiamo prima la trasmissione. Appuntamento il prossimo venerdì dalle 21 a mezzanotte. Ringrazio Ida Parlavecchio, la nostra redazione, Simone Brancato alla regia, Francis e Pablo, prego. Sì, volevo ringraziare anche Federica che ci ha spesso aiutato. Oh, ma certo, la ringraziamo. Grande, grande. Tra l'altro ha fatto anche il compleanno da qualche giorno, le facciamo gli auguri anche in radio, va bene. Esatto. Grazie a tutti voi di essere stati con noi. Appuntamento anche su internet, su rockrevolution.it, per il podcast e le repliche della puntata. Grazie a tutti, buona continuazione su CRMP Radio. Avete appena ascoltato Rock Revolution su CRM Happy Radio. Sugar to kiss.